il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il rapporto tra uomo e fauna è sempre stato complesso nei secoli, soprattutto dove l'uomo si è espanso con l'agricoltura o nei periodi come in questo, dove gli animali occupano degli spazi che sono stati un po' abbandonati dall'uomo e arrivano a volte anche fino alle periferie. Vorremmo parlare di questo oggi e lo facciamo con il dottor Ettore Zanon dell'Accademia Ambiente, Foreste e Fauna del Trentino. Benvenuto. Salve. Ecco, questo era un po' il tema che vorremmo approfondire oggi, ma partiamo da chi siete, che cos'è questa Accademia Ambiente, Foreste e Fauna del Trentino? L'Accademia è una scuola di formazione permanente che si occupa delle materie che hai detto, cioè di materie ambientali, forestali e faunistiche. È stata creata dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento insieme alla Fondazione Edmund Mach, che è una fondazione che riunisce un po' tutte le istituzioni che si occupano di ricerca e di formazione in tematiche ambientali e agrarie in provincia di Trento e fa capo sostanzialmente all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige. Quello che facciamo è formazione appunto dedicata sia al personale della provincia sia a privati che associazioni su queste tematiche. Poi numericamente la maggior parte dei partecipanti ai nostri corsi sono i pescatori per le abilitazioni previste dalla legge e i cacciatori. Poi in realtà facciamo anche molte iniziative sul territorio dedicate anche a un pubblico più vasto, ai turisti piuttosto che agli agricoltori, alla popolazione. Ecco, il tema che abbiamo annunciato è un po' quello della fauna, perché nelle nostre zone, in tutto il nord-est, si stanno moltiplicando le situazioni e gli episodi anche di contrasto tra uomo e animali. Parliamo dei cinghiali nel Friuli, nei Colli Euganei, parliamo dei cervi in tutta l'area del Friuli, nel Cansiglio, l'orso nel Trentino, ma anche di volpi, di altri animali, di gamberi della Louisiana, nei nostri fossi. Qual è un po' la situazione? Che cosa anche è un po' più preoccupante dal vostro punto di vista? Beh, hai citato tante specie, tante problematiche diverse. Più in generale si potrebbe dire che la natura sta riconquistando degli spazi che sono stati abbandonati dall'uomo, no? Perché nel tempo, negli ultimi decenni, la popolazione si è più concentrata nei centri urbani e magari ha spostato la propria attività da attività che agivano, impattavano sulla natura, come l'agricoltura, lo sfruttamento del bosco, attività industriali e di servizio. Quindi ci sono dei terreni, dei territori marginali, al di là di quelli compresi per esempio nelle aree protette, che comunque sono stati abbandonati dalle attività economiche dell'uomo, per cui la natura riprende degli spazi. E con questa in questo fenomeno c'è anche la ricomparsa di molte specie faunistiche, alcune gradite, altre meno, e bisogna anche poi capire all'interno della popolazione, segmentando fra virgolette, quali sono le varie percezioni, per cui magari per spiegarci un po' più chiaramente, il cinghiale può essere gradito ai cacciatori, può essere simpatico a delle persone che lo osservano, ma magari non è, che ne so, gradito ai contadini, quali fa danni. Poi hai citato anche delle specie che sono state introdotte dall'uomo o che hanno creato problemi. Quello, credo che in Veneto la più conosciuta sia la nutria, per esempio. Sono specie alloctone che non facevano parte degli ecosistemi originari di quel territorio, sono state introdotte in vario modo dall'uomo e hanno innescato delle dinamiche particolari, insomma, creando degli squilibri. Ecco, noi siamo abituati al rapporto con gli animali perché li vediamo, sì, gli animali un po' da compagnia. Penso che tra chi vive in città e chi vive in questi luoghi, che non possiamo dire di frontiera, ma comunque luoghi dove ci sono animali in libertà vicini, quindi ai margini dei boschi o anche nella campagna, ci siano modi diversi di vedere questa fauna selvatica. Certamente, generalizzando un po', però il ragionamento che hai fatto è molto corretto. Chi abita o vive comunque a contatto con la natura ha la possibilità spesso di avere dei rapporti diretti con le specie della fauna selvatica, quindi le può osservare direttamente e se ne fa anche una propria esperienza di percezione, diciamo così, una propria cultura, che è diversa da chi abita magari in un ambiente urbano dove il rapporto con gli animali selvatici si può limitare magari, che ne so, al documentario visto in TV piuttosto che al cartone animato se si tratta di ragazzi, di bambini. Quindi lì si vengono a formare delle sensibilità e delle percezioni molto diverse, una un po' più vicina alla realtà e l'altra invece è più virtuale, se così vogliamo dire. L'orso nel Trentino come viene visto? Ah, questa è una domanda molto difficile. L'orso in Trentino, come saprete, come saprai, non è mai scomparso, era presente in natura fino agli anni 90, dove è stata iniziata un'operazione di reintroduzione per far rinascere questa popolazione residua. In quella fase era stata fatta una approfondita indagine demoscopica proprio nelle valli dove sarebbe stato fatto questo processo, questo progetto di reintroduzione, e la risposta delle persone è stata estremamente positiva. Credo che si parlasse a quel tempo dell'orso in teoria, no? Dopo invece, con il grande successo del progetto di reintroduzione finanziato anche a livello europeo e la presenza effettiva della specie sul territorio, questa opinione da parte del pubblico è cambiata e in molti casi il rapporto diretto con l'orso ha fatto modificare in senso negativo la percezione delle persone. È una cosa molto difficile da analizzare, che come quasi sempre accade con le specie animali porta un sacco di sfaccettature diverse e quindi delle criticità ovviamente. Ne parliamo tra poco, torniamo con il quadrifoglio tra pochi minuti. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi alla verità, a quello che non hai mai chiesto, ad ogni dubbio che si accenderà, al cielo azzurro dietro un vetro, ad uno sguardo che si è perso ormai, all'innegabile paura che questa vita non mi basterà. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa va a finire, troverò tra le tue braccia. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa può cambiare, troverò, troverò. Cerco una risposta, cerco una risposta a tutto quello che non resta, a quello che poi si dimentica, ad un'idea che gira in testa, a cosa chiede il mio DNA, alle domande più frequenti, alla paura, alla necessità, alla bellezza di un tramonto, al mio bisogno di semplicità, a quello che non so capire, a tutto quello che verrà. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa va a finire, troverò tra le tue braccia. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa può cambiare, troverò. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale. La strada. risposta. Cerco una risposta. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con il dottor Ettore Zanon, coordinatore dell'Accademia Ambiente, Foreste e Fauna del Trentino, e stiamo parlando di fauna. Abbiamo parlato di fauna selvatica e anche di orso in Trentino. La fauna che conosciamo più da vicino, soprattutto che vive in città, ma non solo, è la fauna domestica, insomma, perché sempre fauna è, e i cosiddetti pets. Quindi animali che teniamo a contatto con noi, non sempre nel modo corretto. C'è qualche cosa di particolare, qualche situazione, qualche animale nel quale forse dovremmo, con il quale dovremmo avere maggiore attenzione? Ma questo fenomeno, cioè il fatto che le persone decidano di convivere con un animale, adesso si dice familiare, no? Non è un animale domestico in senso lato, con un animale di famiglia che diventa un membro aggiunto della famiglia, è una cosa indubbiamente positiva, perché sappiamo che convivere con un animale, cane è il tipico, è il più popolare, l'animale più presente nelle case degli italiani, è un'esperienza assolutamente gratificante sotto il profilo emotivo e anche educativa. Poi sappiamo che gli animali addirittura sono utili in alcune terapie, no? Però dopo ci sono anche, come sempre, delle criticità, quello cui facevi cenno, che partono molto spesso da una scarsa consapevolezza da parte di chi decide di vivere con un animale, in senso di responsabilità. Difatti capita, lo sappiamo, lo vediamo, ci sono delle campagne di pubblicità apposite che magari si prende un cane, un cuccioletto, e poi dopo, quando diventa un impegno considerato troppo gravoso per la famiglia, viene abbandonato. Questo è uno degli aspetti tipici. In altri casi la mancanza invece è sul controllo di quello che l'animale fa, e allora banalmente possiamo pensare agli escrementi abbandonati sul marciapiede, che sono un problema di decoro urbano ma anche sanitario sotto certi profili, oppure si arriva ai casi limite degli incidenti molto gravi con i cani. In Italia ne abbiamo più o meno uno all'anno mortale, e purtroppo molto spesso si tratta di tragedie che coinvolgono bambini piccoli. Ma se andiamo su una scala più ampia, per esempio negli Stati Uniti ci sono circa 4 milioni e mezzo di persone morse all'anno da cani, 30.000 circa che devono ricorrere alla chirurgia ricostruttiva, e più di 30 morti all'anno. Un fenomeno che sta crescendo con il crescere della presenza di cani nelle famiglie. Quindi probabilmente sarebbe necessario che tutto questo si facesse con maggior consapevolezza, assumendosi le responsabilità e anche decidendo di imparare come si convive con un cane in maniera corretta. Ecco, penso che forse, ne dici bene, c'è bisogno di maggior consapevolezza, maggior formazione anche. Oggi che si sta diffondendo una sensibilità maggiore anche nelle persone verso l'ambiente, molti non mangiano carne animale, molti sono contrari anche ad alcune operazioni, per esempio pensiamo all'abbattimento che viene fatto di alcune specie, come appunto i cervi o i cinghiali nei Colli Euganei o in Friuli Venezia Giulia che citavo prima. Prima di prendere certe posizioni o di fare certe cose, come prendere un animale familiare, forse sarebbe il caso di informarsi di più. Come lo si può fare? Ma io credo che anche questo sia un ragionamento fondato. C'è un aspetto che è, come dire, fra l'etico e l'ideologico, secondo il quale io posso decidere di non nutrirmi di proteine animali perché non voglio che un animale venga ucciso per nutrirmi, e questa è una posizione assolutamente rispettabile. In generale però bisognerebbe anche qui che ci fosse una maggiore informazione per fare le scelte in maniera consapevole, che è insomma un aggettivo che abbiamo usato molto in questa conversazione, e io credo che alla fine per capire la fonte più corretta siano le informazioni tecnico-scientifiche. In Italia, come in altri paesi mediterranei, c'è una tendenza un po' particolare che io chiamo di iperumanesimo o umanesimo estremo addirittura, nel senso che le persone colte di solito si confrontano sulle tematiche della letteratura, della musica, mentre spesso scarseggia una competenza e conoscenza diffusa sulle tematiche ambientali, naturalistiche in generale, cosa che non avviene nei paesi dell'Europa centrale, del nord Europa per esempio. Bisogna dire che questa dinamica è in evoluzione, e cresce la consapevolezza e la conoscenza anche fra gli italiani, però penso che una base comune nella formazione delle persone che dia più spazio anche alla conoscenza laica, tecnico-scientifica della natura e della fauna farebbe bene. Grazie. Grazie a voi. Concludiamo con un paio di notizie. Il marrone dei record in Italia è veneto e precisamente veronese. Si tratta del marrone di San Zeno di Montagna, al quale avevamo dedicato una trasmissione un paio di anni fa. San Zeno di Montagna è una mena località situata a poco più di 600 metri nel comprensorio del Monte Baldo e si affaccia sul lago di Garda. È stato il primo nel bel paese e anche in Europa ad ottenere la DOP nel 2003 in virtù delle tecniche di lavorazione tradizionali applicate e in particolare la curatura. Il marrone sanzenate è anche il primo in Italia ad aver ottenuto il marchio bio ad un anno poco più dall'inizio delle pratiche di riconoscimento. Chi lo vuole lo può assaggiare ed acquistare durante la 44esima edizione della Festa della Castagna in programma a San Zeno di Montagna per 3 fine settimana da sabato 22 a domenica 6 novembre. Storico, il via libera dell'Unione Europea alla richiesta italiana di indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari. È una conquista per i produttori e anche per i consumatori che finalmente potranno sapere da dove arriva il latte a lunga conservazione o quello usato per produrre latticini e altri prodotti. L'obbligo dell'etichetta arriva perché sono scaduti, senza obiezioni, alle ore 24 del 13 ottobre scorso, i 3 mesi dalla notifica previsti dal regolamento dell'Unione Europea, come termine ultimo per rispondere agli Stati membri quando ritengono necessario adottare una nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti. Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti appunto lattiero-caseari e dovrà essere indicato in etichetta il paese di mungitura, il paese di condizionamento e il paese di trasformazione. I produttori auspicano che l'entrata in vigore, fissata nei 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, entri dal 1 di gennaio del 2017, come tra l'altro è stato previsto per un testo analogo in Francia. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.